Una contadina maestra di vita. Teresa Manganiello. Parte prima. Teresa, figlia di famiglia. Capitolo undicesimo. Pio IX visita Benevento. Gli accennati eventi di Roma e di Benevento ebbero sicuramente risonanza anche a Montefusco, dove gli schieramenti politici erano particolarmente vivaci, e dove lo stesso parroco, abate Pasquale Ciampi, come si è visto, dava chiari segnali di disaffezione al legame tradizionale fra Tronto, cioè Re Ferdinando di Borbone, e l'altare, cioè religione, chiesa e papato. Sicché l'infante Teresa, appena nata alla vita e rinata alla grazia, respirò un'aria intrinsa di tensioni e turbamenti sociali. Non tutto l'anno 1849, il primo di vita della neonata, passò tuttavia all'insegna delle lotte e delle lacerazioni. Sullo scorcio di esso, la situazione nella terra beneventana, estremo lembo dello Stato Pontificio, anche per l'abile condotta del delegato pontificio, Monsignor Gioacchino Pecci, futuro Papa Leone XIII, si era andata tanto normalizzando da permettere una visita in persona dello stesso Pio IX a Benevento. Il Papa vi giunse il 30 ottobre e vi rimase fino al 2 novembre. Questa visita dovette immancabilmente richiamare tanti turisti e pellegrini da tutta l'Irpinia e dal Sannio. Piace immaginare che vi sia stato anche qualche rappresentante della parrocchia di Montefusco. Certo, la notizia della vicina presenza del Sommo Pontefice dovette riempire il cuore di qualche famiglia cristiana del paese, tra cui quella di Romualdo Manganiello, e la benedizione del Papa poté raggiungere tutti i montefuscani, l'infante Teresa compresa. Circa 20 anni dopo, sarebbe stata lei, Teresa, a recarsi in visita dallo stesso Pio IX a Roma, accompagnata da una nobile famiglia di Benevento, a parlargli e ricevere una speciale benedizione. Naturalmente, il cardinale arcivescovo, già da tempo rientrato in sede, fu in prima fila ad accogliere il Sommo Pontefice e a rivolgergli il saluto e a tenergli compagnia nei circa 3 giorni trascorsi nella città metropoli. Così il cardinal Carafa veniva ampiamente ripagato delle amarezze che aveva dovuto ingoiare all'inizio dell'anno, che stava per chiudersi con la presenza in attesa del vicario di Gesù nella sua arcidiocesi.